rassegna stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli e benvenuti alla nostra rassegna stampa europea. Tra i temi ancora caldissimi di questi giorni c'è naturalmente l'immigrazione. E allora vi cito un articolo uscito qualche giorno fa sulla Süddeutsche Zeitung, che è un po' sganciato dall'attualità, però secondo me tocca alcuni punti che sono poi quelli su cui secondo me torneremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, forse addirittura nei prossimi anni. L'articolo era di Andrea Bachstein e si intitolava Sui profughi l'Europa perde tempo, e il riferimento naturalmente è al fatto che Federica Mogherini, l'alta rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, cioè un po' il ministro degli esteri dell'Unione Europea, aveva, di concerto con l'ONU, con il supporto dell'ONU, aveva praticamente messo a punto un piano che sulla carta era pure stato approvato ed era un buon piano. Il problema, come avevamo detto proprio settimana scorsa, era poi vedere come i singoli paesi lo avrebbero implementato, se lo avrebbero implementato. E allora scrive Andrea Bachstein: gli aspetti legali che ostacolano una maggiore giustizia sono invariati, mancano anche le premesse pratiche, non tutti gli stati dell'Unione hanno un sistema di accoglienza funzionante, i criteri per il riconoscimento dello status di rifugiato sono variabili, come potranno rifarsi una vita i rifugiati che si troveranno in paesi come Romania o Bulgaria, dove molti abitanti riescono a malapena a sbarcare il lunario? E qui il riferimento è al tema delle quote, che se vengono decise troppo a tavolino, uno dei rischi è quello appunto di assegnare a paesi che hanno difficoltà anche con i loro cittadini a garantire ai loro cittadini un minimo di reddito di sussistenza, come faranno poi a accogliere altre persone. L'Ungheria per esempio è contraria alle quote, così come la Repubblica Ceca, che nel 2014 ha registrato appena mille richieste d'asilo. Anche i paesi baltici e il Regno Unito faticano ad accettare l'idea delle quote. L'Europa ha esitato troppo a lungo prima di occuparsi seriamente dei profughi, concludeva questo articolo. Ora nel Mediterraneo galleggiano cadaveri e la cattiva coscienza spinge i politici a un interventismo frenetico che non serve a molto, e così si perde altro tempo a danno delle persone che hanno bisogno di aiuto. E insomma, abbiamo assistito, mi sembra una definizione ottima questa di interventismo frenetico, proprio alle reazioni, io direi quasi isteriche, di molti nostri politici di fronte alla notizia dell'arresto del marocchino che potrebbe essere arrivato appunto con uno di questi barconi. Ci sono tutti i condizionali possibili e immaginabili d'obbligo, ma le reazioni sono state appunto così, quindi le reazioni a un fatto di cronaca e non certamente inserite in uno scenario molto più complesso. A proposito di immigrazione, vi segnalo, sempre grazie al sito, sapete la mia passione, presseurope.eu, una mappa che in realtà è stata fatta da Tableau Public su dati Eurostat, che mostra l'atteggiamento dei paesi, nei vari paesi dell'Unione Europea nei confronti dell'immigrazione, dove le persone ne hanno insomma meno paura. Il paese dove tutta l'Unione Europea in cui l'immigrazione viene vista anche come un aspetto positivo, perché sono nuove risorse, è la Svezia. Molti paesi che sono in posizioni un po' di mezzo, dove c'è la percentuale tra il 40 e il 50%, tra questi ci sono Spagna, Portogallo e Irlanda. L'Italia invece in questo momento tra il 15 e il 21% c'è solo una percentuale tra il 15 e il 21% della popolazione ritiene che l'immigrazione abbia dei vantaggi positivi. Oltre all'Italia c'è anche la Grecia e altri paesi dove magari appunto l'immigrazione viene vissuta, soprattutto nell'ultimo anno, diciamo, come un grossissimo problema e anche fonte di sconquassi sociali, perché poi vediamo cosa succede in tutte le regioni, in primis la Sicilia naturalmente, che devono occuparsi della prima accoglienza, che è l'aspetto veramente più difficile. E passiamo a un altro argomento, che è quello della Brexit, altro argomento molto caldo, anche perché tra due giorni, il 27 di maggio, David Cameron farà una tra due giorni David Cameron assisterà alla Queen's Speech, il discorso che la regina farà al Parlamento, e è la cerimonia ufficiale di apertura del nuovo Parlamento, che è il frutto dell'elezione del 7 maggio, è un punto importante nel processo democratico della Gran Bretagna, e in quell'occasione probabilmente la regina dirà qualcosa anche sull'Unione Europea. Ma vediamo allora questo rischio Brexit. Sapete che Brexit è il rischio dell'uscita della Grecia o dall'Eurozona o addirittura dall'Unione Europea. la Gran Bretagna non è nell'eurozona, ha la sterlina, quindi il rischio in questo caso è un exit, cioè una Brexit proprio dall'Unione Europea. E secondo il Guardian, dopo le crisi del Mediterraneo, avete sentito anche nell'articolo della Süddeutsche Zeitung, la contrarietà della Gran Bretagna ad accogliere più persone richiedenti diritto d'asilo di quanto faccia in questo momento, ma anche la crisi dell'Ucraina. Adesso c'è proprio questo problema con l'Unione Europea, perché David Cameron, il premier conservatore, ha vinto il suo secondo mandato, ha una maggioranza molto forte in Parlamento, ma lo ha vinto anche sicuramente assecondando alcune posizioni anti-europeiste che già c'erano all'interno del suo paese e che erano state cavalcate da altri partiti. La vittoria di Cameron, scrive il Guardian, dimostra che il primo ministro ha saputo resistere allo tsunami della crisi economica meglio di quasi tutti gli altri leader europei. Ora si trova a far parte con Angela Merkel di uno sparuto gruppo di sopravvissuti politici nell'Unione Europea, una posizione che dovrebbe fruttargli un credito politico notevole. Tuttavia Cameron ha voluto assecondare la richiesta dei populisti di mettere un freno alla libera circolazione delle persone, che è uno dei pilastri dell'Unione Europea, e così ha danneggiato la sua credibilità proprio a livello europeo. Vedremo quindi, conclude il Guardian, la classe politica britannica deve garantire che il dibattito nazionale sulla presenza nell'Unione venga condotto in modo costruttivo e con cognizione di causa, senza l'allarmismo e lo sciovinismo che imperversano ormai nella politica britannica. Il Guardian, lo segnaliamo, è comunque un quotidiano decisamente schierato a sinistra, ha salutato con un certo favore la vittoria di Cameron, perché se non altro dà stabilità e soprattutto perché considerava l'opposizione del partito laburista inadeguata, però resta un partito che ha comunque posizioni diverse da quella dei conservatori guidati da Cameron. Per Financial Times appunto c'è l'attenzione puntata su questa Queen's Speech, il discorso della regina, e può darsi che si parli anche di questo referendum, una delle promesse fatte da Cameron in campagna elettorale, un referendum per sapere se i cittadini britannici vogliono restare all'interno dell'Unione o uscirne. All'inizio doveva essere entro il 2017, poi probabilmente sarà anticipato al 2016. Cameron, che come ricorda il Financial Times, questa consultazione referendaria l'aveva messa nel suo manifesto elettorale, non è una sorpresa, è comunque appunto un'occasione, questa Queen's Speech, l'insediamento del nuovo Parlamento, per prendere, se lo vorrà, se lo farà, un impegno formale davanti alla regina. Intanto però ci sono anche posizioni più sfumate, ci sono quelle molto chiare, cioè di chi vuole uscire di alcuni partiti, però per esempio il presidente della Confindustria britannica, ricorda Financial Times, Mike Rake, ha avvertito che per la maggior parte degli imprenditori europei, degli imprenditori del Regno Unito, appartenere all'Unione Europea è un interesse nazionale. Vedremo poi se anche la finanza nel suo complesso o in alcune sue parti prenderà posizione. Passiamo alla Grexit, ne dobbiamo parlare, purtroppo come sapete non c'è ancora una soluzione, ne parliamo da tantissime settimane, tifiamo tutti, almeno io qui, tanti noi a Radio 24, ma sono sicura tantissime altre persone tifano perché la Grecia non esca dall'euro, che si trovi dall'euro, che non esca dall'Unione Europea, che si trovi una soluzione a questo problema. E allora per esempio la Süddeutsche Zeitung spiega che l'Eurogruppo sta studiando la possibilità di estendere fino all'autunno il piano di aiuti alla Grecia, che sarebbe in scadenza il 20 giugno. Ci sono funzionari europei che stanno lavorando su questa ipotesi e naturalmente ci vuole il consenso dei creditori, tra cui ci sono anche grandi istituzioni come il Fondo Monetario Internazionale. Per esempio si starebbe lavorando a una riforma dell'IVA, vi suona familiare quando si parla appunto anche a noi, no? Ogni tanto quando abbiamo dei buchi di bilancio si torna sempre a parlare di un innalzamento dell'IVA. Ecco, con questa riforma, per esempio, scrive la Süddeutsche Zeitung, si potrebbe reperire altri 5 miliardi. Naturalmente ci sono anche in cantiere, il premier Tsipras le ha promesse, ma non si sono visti fatti concreti, anche la riforma previdenziale e quella del mercato del lavoro. Un'ultimissima segnalazione: abbiamo parlato di Unione Europea nel suo complesso, le sue istituzioni. Ecco, per Le Figaro, la Commissione Europea, che è guidata, come sapete, da Jean-Claude Juncker, che sta lavorando ad alcune modifiche importanti, perché poi l'atteggiamento, per esempio, dei britannici verso l'Unione Europea è dovuto anche ad alcune regole che si è data l'Unione Europea tanti anni fa e che non piacciono, di estrema rigidità. C'è un grande piano di riforma nei programmi di Juncker, secondo Le Figaro si starebbe concretizzando. Certo che poi, di fronte alle tantissime altre emergenze che ci sono state, forse le riforme più così dei massimi principi sono passate un pochino in secondo piano. Ultimissima segnalazione dalla UK Health Forum, una mappa sull'obesità. Vi segnalo che in Europa l'aumento maggiore dell'obesità tra i maschi è stata tra gli irlandesi, mentre tra le donne bulgare. L'Italia tutto sommato è messa abbastanza bene, siamo quintultimi per obesità quanto a donne e quindicesimi quanto a uomini, ma il rischio obesità, avverte questa mappa dell'OMS, è concreto. Ultimissima segnalazione davvero, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.